diciamo che per me in primis il design deve avere un valore sociologico. E quello che cerchiamo di fare come brand, io anche un po' come designer, perché molti prodotti magari li progetto, però al di là insomma del designer, credo che sia molto importante che il design comprenda i bisogni del suo tempo, e in questo senso vada in certe direzioni. E quindi per me insomma l'approccio è sempre quello di creare delle cose che siano anche fruibili dalla gente, ma non solo in termini economici. Questo prodotto che presentiamo, che si chiama Et Voilà, che in sostanza facciamo lavorare il tessuto in maniera anomala, perché viene teso e risulta quasi una superficie rigida. Partiamo dal principio, si tratta di un armadio, non un armadio? Si tratta in realtà, in questo caso, che è lo primo step, di un armadio, ma in realtà attendere e come secondo e terzo orizzonte arriverà ad essere una cucina, un bagno. Noi vorremmo vestire le case, e quindi ci saranno questi tessuti che richiudono lo storage, che fino a prima era fatto di legno, di vetro, di pezzi laccati e bla bla bla. Cosa comporta questo? Allora, questo intanto ha un beneficio assoluto sull'ambiente, perché riduce in maniera drastica l'utilizzo di materiale, di materie prime. In seconda battuta ha un impatto economico super, perché un armadio ad esempio da 3 metri insomma verrà dai 2.000 ai 2.400 euro, che per il nostro posizionamento è un prezzo molto molto competitivo. Okay? Permetterà una fruizione diversa anche del senso dell'oggetto, per cui a livello di appenderia abbiamo dei tubi girevoli che ruotano e ti vengono incontro. L'accessibilità oggi non è una visione solo economica, l'accessibilità è una visione che ti permette di comprendere e di utilizzare molto bene le cose. Poi io credo molto nel tema di partecipazione, per cui mi piace molto coinvolgere i fruitori nel metterci un qualcosa di suo nelle cose. Okay? Quindi qua avremo tutta una serie di tessuti che potranno essere molto, molto friendly per chi poi insomma gli piace una cosa piuttosto che un'altra. Quindi l'idea di vestire oggetti e camere, vestire e anche cambiare poi. Chiaro. Oggi, sai, la Cina potrà copiare i prodotti, l'India potrà copiarli. Credo che invece, se lavoreremo molto bene su tutti questi aspetti intangibili, sono incopiabili. Le atmosfere che riusciamo a ricreare negli appartamenti lago sono delle atmosfere che sono magiche, sono straordinarie. È tutto molto made in Italy, oppure, collegandomi alla questione del laboratorio lago, siete abbastanza aperti? Beh, anche all'interno? Noi siamo molto aperti. Il Lago Studio, che è questo centro creativo che abbiamo, è, che è una sorta di cervello e cuore dopato dell'azienda, perché amplifica la potenza creativa. Sai, secondo me poco importa oggi, che io credo che tu devi fare le cose con anima e con il cuore, che sia made in Italy, potrebbe essere anche made in China. Se tu fai bene le cose in China va benissimo, il problema è come fai le cose. Noi siamo molto made in Italy, ma non è che ci tengo così tanto a sbandierare questa cosa. Io credo che noi dobbiamo muoverci con una piattaforma etica che sia interessante. Credo che dobbiamo muoverci, io ho 38 anni, ok, e mi sento nipote di questo capitalismo, e mi sento anche in dovere di portare anche una revisione, un'evoluzione del capitalismo. Credo molto nelle organizzazioni circolari, partecipative, ovvio che servono capitani. Non puoi escludere dalle responsabilità poi i vari ruoli, però credo molto in questo tipo di mondo. Che il prodotto, diciamo, all'interno della tua azienda funziona? Ogni tanto mi chiamano a fare delle conferenze e ogni tanto mi chiedono se sono pazzo. In realtà noi siamo passati da 5 a quasi 35 milioni nel giro di 5 anni.